nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Parliamo di donne, parliamo di lavoro, ce la prendiamo col multitasking che, lo sapete, è una grande fregatura che continua ad avvelenarci la vita, costringendoci a fare 5 cose tutte insieme, cercando pure di farle bene, mentre niente e nessuno chiede altrettanto agli uomini. Bene. A parte il multitasking, noi, come sapete, ogni domenica parliamo di donne, di lavoro e anche di giovani. Proprio nei giorni scorsi l'Istat ha diffuso dei dati che parlano di occupazione giovanile. Sono dati che vanno bene, che segnalano un lieve miglioramento nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. E però, pensate, anche se c'è stato un miglioramento, soprattutto un miglioramento corposo rispetto a un anno fa, di 3,3 punti percentuali in più, eppure in questa fascia di età 15-24 anni l'occupazione resta solo al 16,1%. Saranno tutti a scuola? Pare di no, perché molti sono caratterizzati dall'espressione né, non vanno né a scuola né lavorano. Ma di questo parleremo per tutta la puntata, parleremo di giovani disoccupati e vorrebbero trovarlo il lavoro e come si fa a trovarlo in un mondo in cui spesso i dati raccontano di diseguaglianze estreme. Li vedremo questi dati, ma adesso torniamo al nostro core business. È il momento dell'agente provocatore. E parlando di donne e di lavoro, chissà se di questi tempi, quando appunto il lavoro scarseggia, non aumenti la diffidenza nei confronti delle donne che lavorano, che sono viste appunto come quelle che magari ti portano via il posto migliore. Ne parliamo con il nostro agente di questa domenica. Chi sarà mai l'agente provocatore di questa domenica? Un giornalista dalla penna affilata, non per niente scrive sul Libero, è uno scrittore, ma è anche di nuovo in TV su Sky con I Tartassati, talk show sulle tasse. Insomma, Francesco Specchia. Buona domenica, Francesco. Buona domenica a voi. Allora, io mi chiedevo, prima del tuo arrivo, se in un momento in cui il lavoro scarseggia le donne non vengano guardate con maggior sospetto dai colleghi, proprio perché la torta si restringe e chi ne porta via magari un pezzetto in più non è visto di buon occhio. Questo vale anche per settori i più vari, vale anche per la TV? Ma guarda, tu parli di sospetto, il sospetto è l'anticamera della verità, ma io devo dirti con lealtà che la verità in questo caso è diversa da quel che appare, perché nel caso della televisione c'è esattamente un ribaltamento di quello che accade nella vita reale, effettiva. Cioè ci vogliono le quote azzurre in TV? Guarda, direi proprio di sì, perché se tu ti fai un conto, io da studio d'antennista, da studio dei palinsesti, mi confronto sempre con i dati di ascolto e le curve d'ascolto e guardo che oggettivamente ci sono interi settori della televisione, parlo del palinsesto mattiniero della 7, piuttosto che dei pomeriggi di Rai 1, del canale 5, di Italia 1, insomma per la stessa Discovery, insomma in gran parte di questi spazi catodici sono conquistati dalle donne, è una conquista silenziosissima, una colonizzazione di una gentile ferocia, direi, ma se tu ci, non so, dalla D'Urso alla Hunziker, passando dalla stessa Sara Varetto che è la nostra Catherine Weiner, cioè la direttrice del Guardian italiana, per non parlare di Monica Maggioni, la presidente della Rai, che ha fatto tutta la gavetta, un uomo Rai a tutti gli effetti, direbbe qualcuno. Ma allora dunque stiamo parlando di una nuova fase di discriminazione? Stai dicendo che gli uomini hanno... No. hanno di che lamentarsi sul fronte televisivo, su quello che è il settore di tua competenza giornalistica. Beh, devo dirti che comunque ci sono in alcuni casi, nel caso della scelta di alcuni programmi, per esempio nel caso in cui tu debba importare dei programmi, dei format stranieri, non so, dei cosiddetti factual, per cui occorre la persona che lanci questi factual, faccia i lanci, la cosiddetta star starter, nei produttori e negli agenti c'è la forte convinzione dei televidenti di assumere, cioè guardare prima una donna. Quindi non è raro che... Qual è la tua spiegazione? Ma la spiegazione è che le donne sono molto più rigorose nel lavoro, hanno un'empatia maggiore sicuramente con gli spettatori, tieni conto che gli spettatori di queste fasce che ti ho detto, ma poi di tutta la televisione, sono ormai spettatori over 60 e molto femminili. Quindi hanno bisogno di specchiarsi in una conduzione femminile. Identificazione. Senti, ma... vedi una femminilizzazione del protagonismo sul video e dunque una femminilizzazione anche dei telespettatori? E i maschi cosa fanno? Guardano solo il calcio o le serie TV? I maschi guardano il calcio, le serie TV neanche tanto, perché anche lì le donne sono arrivate, ferocissimi come amazzoni a conquistare dei territori nuovi, e devo dire la verità che comunque c'è una effettiva femminilizzazione, tra l'altro nel confezionare il palinsesto anche da un punto di vista pubblicitario, i cosiddetti big spender stanno diventando molto le donne di fascia alta, è vero che c'è sempre una prevalenza proporzionale del maschio, perché la nostra è una società maschilista, tutto quello che vuoi, però oggettivamente in questo specifico settore, come nell'informazione, come nella magistratura e in medicina, le donne stanno facendo passi da gigante. Tant'è vero che qui a Radio 24 c'è una trasmissione che si occupa solo di donne e lavoro, che qualche anno fa sarebbe stato magari impensabile, una nicchia così. Non è un caso, direi, no? Senti Francesco, l'ultima cosa che ti vogliamo chiedere è, ma quanto si lamentano invece in TV i conduttori maschi? E nel segreto, contando sulla tua riservatezza, che cosa ti raccontano? Ma c'è un invito, una livore che è tipicamente femminile, quindi si stanno nei maschi, anche nei, maschi. Nei maschi, assolutamente, soprattutto per quello che riguarda la parte della televisione cosiddetta di Stato, che una volta era completo appannaggio dei maschi del Mac Buongiorno in su, però i tempi sono cambiati e ormai ci stanno tutti defilippizzando, è tutto detto tutto. Senti, ma la cosa, come dire, l'accusa più comune che è rivolta alle colleghe che hanno tolto loro la primazia? Si dice sempre chissà come ci è arrivata, no? Che poi magari è vero, però il problema bisogna tenere conto del fatto che ormai è diventata trasversale anche l'etica, quindi la seconda, mentre una volta si diceva chissà quella come è arrivata, il famoso sofà del produttore o del direttore di rete eccetera, invece adesso il ragionamento che si fa, quella è arrivata lì, magari è brava, però deve vedere se riesce a capitalizzare anche quella che accumula. Quindi si è cambiato anche... Capitalizzare anche in che senso? Capitalizzare nel senso che una persona che si dà per scontato, a questo si parla per esempio ti parlo delle dicerie dei conduttori maschi, si dà per scontato che magari sia arrivata lì per questioni trasversali, sì. Ma in realtà la sua abilità dovrebbe essere, dovrebbe stare nel fatto di mantenere quella posizione, perché ormai sono talmente veloce la televisione nel cambiare i conduttori, gli autori, i programmi, e quindi che una donna diventa molto più brava nella misura in cui riesce a mantenere il proprio potere. Quindi è durare nel tempo. È un ragionamento tipicamente maschile. Durare nel tempo. Ha una controindicazione per le donne che magari hanno più di 50 anni, parliamo di conduttrici che sono molto popolari negli Stati Uniti, questo è un problema che non si dà, no, perché Barbara Walters, certo, o altre famosissime giornaliste o conduttrici, che sono due mestieri diversi, sono in video fino a 80 anni, ma qui secondo te ci giocano un po' i maschi competitor a dire ma come, ma quella, guarda, le zampe di gallina. Certo, ci giocano sicuramente, però tu devi considerare che anche qui bisogna considerare la qualità della persona. Io credo che la migliore conduttrice degli ultimi anni sia stata Enza Sampo, che da 60 anni poi ha prodotto le cose di nicchia più belle della televisione italiana. Era la telegenia dell'intelligenza. E su questo giudizio, che mi vede totalmente d'accordo col nostro agente provocatore, saluto Francesco Specchia, buona domenica a te, grazie per essere stato con noi e Nessuno è Perfetto. Grazie, buona domenica a voi. Buona domenica. Nessuna è perfetta. Bene. Bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24 dedicato alle donne che lavorano, e di sicuro la nostra Sunday Girl di questa domenica è una che al lavoro ha dato veramente tanto. Conduttrice da sempre apprezzata dal grande pubblico e anche considerata con grande serietà in un mondo come quello della televisione, che di solito non lesina le cattiverie e le malignità, conduttrice professionalissima, insomma, benvenuta e buona domenica Milly Carlucci, regina del sabato sera di Rai 1, di nuovo in TV da sabato 20 febbraio, con Ballando con le Stelle, che quest'anno è alla 11ª edizione. Buona domenica, Milly. Buona domenica a te. Io credo che alle ascoltatrici, agli ascoltatori, faccia piacere sapere che dall'inizio della tua carriera televisiva, che cominciò con Renzo Arbore negli anni 80, ma che poi è durata tanto e sta avendo un inscalfibile successo, ecco, dietro tutto questo c'è una grande disciplina. C'è per forza una grande disciplina, perché io quando ho cominciato mi sono resa conto che dovevo un po' applicare al mio lavoro quello che avevo fatto nello sport, all'università, insomma in tutta la parte precedente. Hai un obiettivo e devi darti un ruolino di marcia, devi cercare di crescere ogni giorno e devi comunque cercare di non accontentarti mai. Volevo chiederti che cosa pensi del fatto che in TV gli uomini possono invecchiare tranquillamente, per le donne invece è più complicato. Il cinema in questo è un po' più equanime, perché in realtà se tu pensi a Spasso con Daisy, no, ci sono ruoli addirittura da ultra ottantenne. In televisione no, perché nello spettacolo, e poi comunque questo non è solo uno spettacolo, lo è neanche nel giornalismo, ci fu una polemica qualche anno fa nella civilissima Inghilterra, perché una giornalista del TG fu sostituita in quanto non più fresca, eh? Ecco, perché poi anche diciamo la figura di Anchor Woman TG delle ore di punta deve essere in tutto il mondo un po' simile a quello dello spettacolo, cioè un po' patinata. E quanto costa questo in termini, diciamo, di fatica? Quante ore passi tu in palestra? Quanto tempo dedichi alla cura della tua immagine, che ti viene richiesta in quanto donna? Se fossi uomo invece sarebbe molto Guarda, meno. Io ho avuto nella, diciamo, disgrazia tra virgolette di essere una che ha finito la sua attività agonistica con una marea di incidenti alla spina dorsale. Ho avuto però la fortuna che, fatta l'operazione alla schiena, ho scoperto che dovevo per forza lavorare tutti i giorni per il fatto di non avere dolore, che sai che non si guarisce mai dall'ernia al disco, cioè la operi, io ne avevo tre, ma una volta operate tu sei uno cronico, un malato cronico di schiena che deve tenere a bada questa situazione. Quindi lo stretching, gli addominali, i dorsali, il rafforzamento delle gambe, per me è routine quotidiana, perché se no non cammino bene, se no mi comincia il dolore all'anca. E questo purtroppo a me è cominciato all'età di 20 anni, quindi ho passato tutta la vita, appunto a causa dei traumi sportivi, a dover fare questo lavoro su me stessa, ed è diventato un automatismo, non mi pesa più. Quindi secondo me anche in questa famosa immagine che si vuole di noi, non è semplicemente il fatto che dice vado, mi faccio il viso, faccio le cose così e colà, è l'insieme. Tu devi avere un fisico che possa reagire come se tu avessi sempre, quale può essere un'età ideale per una donna, 40 anni diciamo, 35, essere 40. Sempre elastica così. Devi rimanere là, devi rimanere ferma lì, anche nel mio caso, perché sennò subentra il dolore, però in realtà questo è un po' diciamo lo scotto da pagare per tutte quante, quindi è un'armonia complessiva. C'è un momento in cui ti lasci andare? Noi, sai, qui a Nessuno è Perfetta contestiamo il mito del multitasking, il fatto di riuscire a fare bene 5 cose contemporaneamente: la mamma perfetta, la moglie perfetta, la professionista perfetta, l'amica perfetta, la figlia perfetta. Tutto perfetto non si può. E infatti, no, diciamo, infatti, nessuna è perfetta. Ma è vero, è vero. Allora, la mia opinione sul multitasking è stata, credo che sia stato un alibi molto comodo per scaricarci addosso una marea di responsabilità, dicendo ma tanto, infatti, no? Certo, la puoi fare. Certo. E invece il multitasking secondo me ti porta a fare tutto affannosamente male e a un certo punto arrivi veramente col cervello annebbiato. Io devo dire che vivo il mio recupero, io sono chiaramente mi viene chiesto di fare delle performance pazzesche, nel senso che alle volte devo lavorare 18 ore al giorno per giorni di seguito, lo posso fare, però poi ho bisogno dell'abbruttimento. E l'abbruttimento per Milly Carlucci cos'è? Stare a guardarsi una sopra? Dormire. Dormire principalmente. Vuol dire non dovere pensare a truccarmi, vestirmi, non dovere fare niente. Cioè ti fai la doccia, ti metti la tuta da ginnastica e stai in letargo aspettando che il tuo corpo si rigeneri e pian piano ti ritornino le forze. Cioè ho bisogno del momento in cui proprio mi lascio andare e non devo pensare a niente, ma veramente, perché sennò da dove le ripesco le energie? E infatti l'anno scorso hai deciso di lasciare temporaneamente la TV perché c'era stato anche un grave lutto in famiglia, sì, avevi perso tua madre. Infatti. Come si riconosce il bisogno di prendersi un po' cura della propria anima e del proprio corpo? Come si riconosce? Si riconosce dal momento in cui hai un vuoto alla bocca dello stomaco, quando proprio senti che non c'è nulla nella tua disciplina, nella tua educazione che ti possa permettere di continuare a fronteggiare la quotidianità normalmente. Hai bisogno a un certo punto di... Io sento bisogno qualche volta quando, ecco, in questo momento grave che ho attraversato, ho avuto bisogno di toccare il fondo, cioè di arrivare in fondo al dolore per poi risalire piano piano. Ma non risali veramente, diciamo, riesci a impacchettarlo da una parte e dire tanto quello, sai, i dolori fondamentali della vita, la perdita di una madre adorata è una cosa che è una ferita che non si rimargina, una ferita, certo, che non si rimargina. Però la impacchetti, la metti da una parte e diciamo vai avanti perché hai consumato, no, tutto l'arco del tuo dolore anche fisico, del tuo star male, dell'avere mal di stomaco, del sentirti la nausea, di tutte quelle cose fisiche che ti fanno, soprattutto se sei molto sensibile, spesso è il corpo proprio che sta male. Certo, il corpo che ti dice guarda, mollami, fermati sì. e soffri perché non puoi sottrarti alla sofferenza. Infatti. Tu hai una figlia che ha scelto di studiare all'estero e credo non di fare la vita di davanti, diciamo, ai riflettori che tu invece hai scelto. Quanto pesa per una ragazza avere una madre di grande successo, che è sempre bella, che è sempre giovane, che è sempre sui rotocalchi? E io credo che sia comunque un peso difficile da sopportare, soprattutto quando cresci, sei adolescente, devi formare il tuo io. La presenza di una mamma ingombrante può essere un problema, perché tu non vuoi essere ingombrante, non è che uno dice io continuo a fare viva dentro casa, no, non è questo, per carità, però esisti, però la gente ti dice ah, ma tua mamma, è il mondo che te lo fa in qualche modo pesare. Tu da bambino non ti rendi conto di avere una mamma diversa dalle mamme casalinghe, poi pian piano mentre cresci scopri che tua mamma non fa la casalinga, non fa l'impiegata, fa televisione oppure fa cinema, oppure una cantante, è una giornalista famosa. Questo crea una differenza. La mia fortuna è stato il fatto che mia figlia, come mio figlio peraltro, hanno fatto una scuola internazionale e quindi questo li ha messi o meno a contatto con ragazzi italiani diciamo, che subivano il fascino della Milly Carluccia televisiva. Ecco. Poi a 15 anni loro sono andati in boarding school in Inghilterra tutti e due. E quindi devo dire che per loro questo passaggio, che è stato per me dolorosissimo, devastante, e per loro anche difficile perché hanno dovuto cominciare a prendersi cura di se stessi da soli molto presto, però li ha aiutati a diventare veramente altro da me, autonomi, indipendenti, con l'orgoglio, diciamo tra virgolette, di essersi fatti da soli. Senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere riguarda una competizione tra donne dello spettacolo, la sfida tra le due trasmissioni che in questo momento è anche al vaglio della Procura di Roma, perché la tua trasmissione Ballando con le Stelle e Amici di Maria De Filippi si contendono entrambe lo scettro di programma social dell'anno e un gruppo di sostenitori di Maria De Filippi ha accusato attraverso Facebook te e anche Ballando con le Stelle di aver aperto account fasulli per guadagnare sostenitori virtuali e sbaragliare la concorrenza. Che è successo? Ma no, questa è una storia di prima dell'estate, questa è una storia vecchia che si è rinverdita. Allora noi abbiamo fatto una querela contro ignoti perché c'era stato un attacco, sai, di quelle cose che quando ci sono gli haters che ti cominciano a scrivere ingiurie e cose, certo, di questo genere, no? Nel fare la denuncia contro ignoti, perché abbiamo scoperto che di tutte queste persone una era una persona reale e invece il 149, proprio numero vero, erano degli account fasulli, diciamo, cioè account senza una persona fisica dietro, no? Quindi non abbiamo potuto fare altro che fare una denuncia contro ignoti, aspettando che semmai Google ci dirà qual è l'identità che si nasconde dietro queste. Però uno degli account fasulli è un account che è un fake con il nome di Maria De Filippi. Ah, ecco. Non c'entra niente lei non ha nulla a che vedere con questa cosa. Sei fake, certo, i social creano un sacco di problemi, sì, no infatti. E allora io infatti ho chiesto l'altro giorno all'avvocato, dico: ma perché hanno chiamato Maria De Filippi? Dice: no, è un atto a tutela del personaggio, perché le verrà chiesto se lei ha conoscenza del fatto che c'è qualcuno che usa il suo nome impropriamente è incappato in una querela, ecco. Beh, comunque io vi aspetto tutte e due qui, Milly e Maria De Filippi. Questa è una trasmissione dedicata alle donne che lavorano, certo. Più di voi due chi c'è? Ah, guarda, Maria è un mito secondo me, perché è una donna che ha saputo raccogliere nella sua vita una serie di ruoli che sono quello di autore, di capoprogetto, di produttore, cioè di presentatore naturalmente anche dei suoi programmi. Quindi ha fatto il percorso più tondo che si possa immaginare, il migliore. Beh, pure tu non te la sei cavata male, diciamo. Non sono produttrice però delle mie cose, quindi diciamo Maria ha fatto ancora di più, e questo è encomiabile, perché fatto da una donna tu sai quanto è difficile. Quindi in queste ore si parla della candidatura di Rita Dalla Chiesa a sindaco di Roma. Ti hanno mai proposto di fare politica? Guarda, nel passato è successo che c'è stato un momento intorno agli anni 90 in cui si cercavano personaggi che venivano così da altri mondi. Si, no? Cercano ancora, evidentemente. Evidentemente si cercano ancora. Io dissi di no, perché credo che ognuno debba fare il suo, no? Cioè ognuno abbia il proprio mestiere, la propria professionalità, le proprie competenze. E sinceramente la politica non è mai stata una mia competenza, quindi la lascio ad altri. Grazie Milly Carlucci, e grazie, la ritroviamo su Rai 1 a Ballando con le Stelle. Grazie e buona domenica. Grazie a te, ciao, buona ciao, domenica. Grazie. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento, lo sapete, della lettera della settimana. Eccola. Ho letto che 72 super ricchi si dividono gran parte della ricchezza del mondo. A me basterebbe uno stage a 500 euro al mese. Sono laureata in scienze politiche, parlo inglese e spagnolo, e giorni fa mi sono commossa quando mia madre, stanca di vedermi depressa per aver mandato decine e decine di curricula senza risposta, mi ha proposto di contattare lei e la sua trasmissione Nessuno è Perfetta. Mia madre non è ricca, lavora come parrucchiera e il negozio non è nemmeno suo, ma sarebbe disposta a pagare lei stessa il mio stage, se solo qualcuno mi desse questa opportunità. Poi leggiamo di quanto la disparità tra ricchi e poveri esasperi i popoli che diventano populisti. E ancora vi stupite? Carmen. Ecco, i dati che Carmen cita all'inizio della sua mail si riferiscono al rapporto che è stato pubblicato nel mese scorso, mentre era in corso il famoso summit di Davos, quello in cui i mega miliardari di tutto il mondo si ritrovano in Svizzera. Il rapporto è quello reso noto da Oxfam, la ONG specializzata in aiuti umanitari e difesa dei diritti dei più deboli, e secondo questo rapporto sono 62 i super ricchi, non 72 come scrive Carmen, ma insomma poco manca, i super miliardari più ricchi del mondo che hanno una ricchezza equivalente a quella della metà più povera della popolazione mondiale. E ora Carmen legge queste cose e dice: io mi accontenterei di uno stage di 500 euro. Già, ma anche uno stage di questi tempi non è cosa da poco. Di questo parliamo, e ne parliamo con persone che, come dire, hanno titolo per discutere e anche per dare un consiglio alla nostra Carmen. Ne parliamo con Maurizio Iachino, presidente di Oxfam Italia, tra le più importanti ONG del mondo, la citavo prima, e già presidente di Save the Children Italia. Buona domenica, Maurizio Iachino. Buona domenica, grazie. E ne parliamo con Guido Maria Brera, finanziere, scrittore, cofondatore del gruppo Kairos. Buona domenica. Buona domenica. Ecco, 62 super miliardari possiedono più della ricchezza della metà più povera del mondo. Il dato ovviamente fa impressione, suscita una immediata domanda: ma com'è che la metà del mondo più povera accetta questa condizione? Lo chiedo a Maurizio Iachino perché appunto Oxfam ha acceso i riflettori su questa realtà. Sì, questo è un dato molto significativo e che noi avevamo già portato all'attenzione di Davos l'anno scorso, ma il fatto è che è un fenomeno che si sta muovendo a una velocità spaventosa, perché queste 62 persone che appunto detengono quanto la metà del mondo con termini di ricchezza erano nel 2010 388, nel 2014 80, nel 2015. Quindi si restringe sempre di più il numero. Di più perché il tasso di incremento, la crescita è veramente esponenziale per questa piccolissima parte di persone, e soprattutto è estremamente in controtendenza con l'incremento che è invece della parte più povera del mondo, che non è aumentato per nulla. Cioè negli stessi anni le persone più povere del mondo non hanno visto incrementarsi anche il loro più minimo reddito, se non per negli ultimi 25 anni le statistiche ci dicono il reddito medio delle persone più povere del mondo sono cresciuti di meno del 30 dollari. Quindi meritorio il fatto che Oxfam accenda un riflettore. Dopodiché però ci spostiamo su Guido Maria Brera, che è un golden boy della finanza, ha ispirato anche un romanzo, quello di Walter City, Resistere non serve a niente. La finanza è tra diciamo i massimi obiettivi di quanti dicono questa disparità tra ricchi e poveri non è più sostenibile. Non sente uno stridente conflitto tra i dati che ci ha elencato prima Maurizio Iachino, la presidente di Oxfam, la lettera di Carmen e il suo lavoro di finanziere? Sì, io lo sento come e lo sento da molto tempo, per questo ho deciso anche di scrivere un libro, I diavoli, che racconta proprio la rottura di un signore che fa più o meno il mio lavoro, la rottura proprio interiore. Il sistema che si è creato è un sistema di accumulo che ha riempito un vuoto. Il vuoto è stato quello della politica, non è la finanza che ha vinto, è la politica che ha perso, ed è la finanza oggi, e direi, userei una espressione di Luciano Gallino, il finanza capitalismo, perché non è solo la finanza è un braccio operativo, se volete, ma che mette a volte in ginocchio la politica, però è tutto un sistema di accumulo fatto sì che la politica si ritrae e avanza il funzionamento massimo efficiente del mercato, ma il mercato per essere efficiente e funzionare poi ha un potere distruttore fortissimo, e se non è fermato da uno Stato o dalla politica fa il suo corso. Intanto lo citavo prima, ma vorrei sentire anche le vostre opinioni. Si fa largo tra i millennials, cioè i coetanei di Carmen, la ragazza che ci ha scritto, la voglia di fidarsi dei sessantenni, dei settantenni. Citavo prima un articolo comparso tempo fa su Repubblica, che individua nei Bernie Sanders, il democratico competitor di Hillary Clinton, oppure in Corbyn, il laburista che si è fatto, si è reso popolare, sta aumentando il proprio seguito proprio tra i ventenni e i trentenni, per non parlare persino di Alain Juppé, l'anziano settantenne leader competitor di Sarkozy nel centrodestra francese. Allora chiedo, Maurizio Iachino, diceva Guido Maria Brera che è la politica che ha perso e la finanza ha allargato a dismisura le sue maglie, questi 62 super ricchi che il vostro rapporto di Oxfam cita, sono diventati così super ricchi perché nessuno gliel'ha impedito. E i millennials non si fidano più di nessuno, vanno a fidarsi dei settantenni in politica. I millennials, che sono i più giovani, hanno bisogno di sapere, di conoscere, e quindi seguono le persone che dichiarano secondo loro il vero e che li mantengono informati. Non vogliono prendere decisioni sull'onda dell'emozione o dell'influenza. E quindi la trasparenza della comunicazione delle informazioni è basilare, non solo perché i giovani lo chiedono, ma perché lo dobbiamo per poter rispondere a questi fenomeni come quello della disuguaglianza estrema. Ma questa disuguaglianza è innegabile che sia tutta a favore di questi grandi ricchi, perché il sistema economico nostro è fortemente sbilanciato a loro favore e lo sarà probabilmente sempre più, ma questo grazie a un complesso sistema, mettiamo in luce in questo rapporto il sistema dei paradisi fiscali e un'industria di gestione patrimoniale in ascesa, che evidentemente non premiano chi porta nel lavoro impegno, creatività, innovazione, ma premiano invece chi può portare il capitale, chi fa rendere il capitale. Infatti, è questo il grande problema, che i lavoratori, pur essendo in un momento di ripresa, pur essendo che anche la disoccupazione comincia a dare dei dati migliori, eppure il lavoro non aumenta i salari delle persone. I salari sono fermi. Il millennial che deve incominciare a lavorare, se vede questo, si sente completamente fuori gioco. Si sente fuori gioco. E infatti dalla lettera di Carmen, Guido Maria Brera, affiora una rabbia rassegnata. E a me viene in mente che lei racconta di sé di non essere nato ricco. Allora, questa ragazza che cosa dovrebbe fare per non cedere alla rabbia rassegnata? Io ho avuto la fortuna, io sono del 69, sono stato tra gli ultimi a entrare nel circolo della finanza, e quindi oggi credo che sarebbe ben più difficile farlo. È ovvio che dare un consiglio è molto complesso, è un dispositivo che va indagato bene. Il fatto di conoscere e sapere perché le cose vanno male già può essere in parte consolatorio. Certo che non basta questo, ci deve essere un movimento che parta dal basso. Il rapporto Oxfam che è stato fatto a Davos, io lo andrebbe letto in tutte le scuole, fa vedere che i salari, addirittura fanno vedere i salari dei paesi industrializzati, i salari degli Stati Uniti, che è il paese che noi citiamo sempre a modello, sono fermi dal 95 i salari medi, mentre la produttività è aumentata. Si citava l'arbitraggio fiscale, è vero, ma il dispositivo è ben più complesso. L'arbitraggio fiscale è la parte finale del sistema, la parte iniziale è l'arbitraggio sul costo del lavoro, perché quando è entrata la Cina e altri paesi nel mondo, diciamo, del lavoro, sono entrati con regole completamente nuove che hanno sbaragliato totalmente tutto il nostro mondo, e poi profitti accumulati con l'arbitraggio del costo del lavoro, che era infinitamente più basso, con minori garanzie, sono stati poi accumulati quei profitti probabilmente in paradisi fiscali offshore. Ma non torneranno più i posti di lavoro di un tempo? I profitti torneranno comprando i titoli di Stato dei debiti degli stati più indebitati, imponendo ancora più misure austerity, e lì finiamo il ciclo. E quindi di conseguenza, se questo è il dispositivo, quei posti di lavoro con questo dispositivo qui non torneranno. Serve una retromarcia completa, totale. credo che per far questo ci voglia però una politica, e credo anche che una politica nazionale non può bastare. Ci vuole una politica globale? Cioè pochi che decidano per tutti? Beh, va bene, la politica globale ad oggi ha solo portato le elite. Ci vuole una politica di condivisione, cercando di capire che l'astronave Terra siamo tutti equipaggio, no? Come si diceva, nessuno è passeggero, quindi alla fine questa differenza tra ricchi e poveri poi porterà dei costi sociali anche a carico dei ricchi. Per tornare a Carmen, perché a me sta a cuore questa disperazione, Maurizio Iachino. Quando una ragazza manda decine e decine di curricula e nessuno le risponde, o le rispondono no grazie non ci serve, e lei pensa di aver fatto quello che doveva, ha studiato, si è laureata, sa due lingue, che altro le rimane da fare? Bisogna un po' vedere, perché c'è un sistema, se vuoi anche abbastanza un po' perverso adesso nell'accesso ai posti, tra domanda e offerta. Come sai, non passa più attraverso persone, ma ormai è tutto attraverso il sistema, attraverso il web. Ci si propone attraverso i job post che mettono le aziende o le agenzie attraverso le aziende. E questo, secondo me, ha in qualche modo ancora disumanizzato la cosa. Per cui si guarda a dei curricula, si cercano delle parole chiave, si va direttamente a cercare nel mucchio i pochi che poi si possono veramente incontrare e vedere. Questo va a discapito di molti. Questo vuol dire che bisogna anche in qualche modo formarsi, addestrarsi ad impattare questo nuovo modo di ricerca, per mettere la distintività nel proprio curriculum, per scrivere il proprio curriculum in un certo modo, per far sì che le proprie esperienze si possano vendere, e devo dire proprio vendere, attraverso una paginetta in cui non si mettono solamente dei titoli, ma si trasmette quello che uno è riuscito a fare, magari in una vacanza, o magari in un periodo tra un anno di scuola e un anno di università in cui uno ha potuto fare del volontariato o ha fatto delle esperienze. Che bisogna mettere distintività, e posso dire che bisogna veramente anche addestrare i giovani ad essere un po' più attrezzati nel confronto di un mercato di lavoro che è diventato agguerritissimo e che è diventato dominio di tutti, e soprattutto passa attraverso il web. Il web è una grande, è potente, quindi ma è web. Creare un curriculum che sappia intercettare una serie di parole chiave che poi alla fine vengono recepite magari da un'app che è istruita per leggere i curriculum. Sì, è veramente abbastanza disumanizzante. In chiusura, e con una battuta, se possibile, davvero sintetica, Guido Maria Brera, se lei avesse oggi 24 anni, dove andrebbe a cercare lavoro? Purtroppo devo rispondere, andrei o fuori dall'Italia oppure mi ritornerei alla terra. Secondo me il fatto, noi siamo un paese, l'Italia, meraviglioso, e secondo me andrei a cercare l'unica cosa che ci è rimasta, che è la bellezza, la natura e il fatto di poter tornare. Quindi farebbe il contadino? Ma sicuramente, guardi, farei il contadino, perché non ci sarebbero altre opportunità. Il mondo ormai è piatto, le varie opportunità ci hanno invaso, e purtroppo in Italia dobbiamo tenerci quello che abbiamo di più bello. Non è una risposta scontata, mi creda. Ecco, io ringrazio Maurizio Iachino, presidente di Oxfam, e Guido Maria Brera. Non so se sia stato incoraggiante quello che hanno detto a Carmen, ma certamente aveva accenti di onestà e di autenticità. Buona domenica. Grazie. Buona domenica. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno per l'ultima parte della puntata. Sapete che questo è il momento della nostra coach. Questa settimana è Carla Ciani, e mi piaceva ricominciare con Carla Ciani da quello che diceva poco fa la nostra esperta Maurizio Iachino, la presidente di Oxfam, sulla necessità che quando si manda un curriculum si tenga presente il fatto che poi non a leggerli non sono sempre degli umani, ma magari delle app, dei sistemi informatici che riconoscono alcune parole, selezionano sulla base delle parole i curriculum che poi vengono letti dopo questa selezione. Il che è tutto un po' disumanizzato, no, Carla Ciani? È la quantità, come sempre, no? Che determina poi la necessità di trovare delle applicazioni. In realtà, quando poi si passa questa prima selezione, sono sempre le persone che decidono. Ecco. Perché, specialmente nell'impresa italiana, anche perché dobbiamo parlare anche della piccola e media impresa italiana, le persone poi leggono i curricula e determinano con alcune parole chiave, ma quello che manca in realtà è il desiderio e anche un po' di educazione da parte di chi il curriculum lo invia, di conoscenza dell'azienda, perché noi riceviamo, io lo vedo da noi, dai clienti, dei curricula che sono vuoi un po' per il problema del formato europeo, no? Quindi, ma non hanno accompagnamento, cioè non si sente che non c'è un investimento nella conoscenza dell'azienda alla quale ti rivolgi, non sanno niente di quello che immaginazione, sì. Tu devi immaginarti lì, no? Cercare di anche veramente capire quale potrebbe essere la tua collocazione e crearti un'immaginazione positiva, mandare dei curricula differenziati a seconda del settore merceologico, nemmeno questo fanno le persone, Maria, cioè mandano spam, no? Nel senso a valanga, mentre deve esserci, come nei confronti del cliente, uno studio, un'informazione, in modo che dall'altra parte arrivi, no? Il desiderio di quella persona di lavorare proprio per te. Ecco, questo manca, come manca una sistematicità anche, no? Di aggiornamento dei curricula. A volte ci sono persone che fanno delle esperienze magari importanti o che magari non sono così significative, ma dimostrano che si sono impegnati in altre cose, ma il curriculum non viene aggiornato. Certo, e si va a perché conta magari anche aver fatto, che ne so, 2 anni l'aiuto parrucchiera nel negozio della madre, come sì. Nel negozio della madre. Ma, sì, certo. Sì, sì. Ecco, a proposito di madre, mi ha colpito nella mail di Carmen che ci sia, no, questa depressione della ventenne, che si capisce, no, la frustrazione di mandare, certo, richieste senza che ci sia mai neanche una risposta. E dall'altra parte c'è la preoccupazione della madre che la vede depressa. Come si gestiscono questi due stati d'animo, molto comuni purtroppo nelle famiglie italiane? Mm-hmm. Allora, prima di tutto, cioè, la rabbia è ovvio che è generata da questo senso di ingiustizia ed è il primo elemento da eliminare, nel senso che la rabbia sprigiona un'energia potente, ma non potendo far nulla in realtà per modificare questo divario, è un'energia che è fine a se stessa, no? Quindi poi chi è in uno stato di rabbia e di delusione non fa altro che trasmettere rabbia e delusione, addirittura anche nei comportamenti, nella comunicazione visiva, nell'espressione del viso, no? Quindi ci sarà sempre qualcuno che starà meglio di noi, ci sarà sempre qualcuno che starà peggio di noi. Il punto è concentrarsi sul presente, sulle cose che in realtà sono state fatte e che sono il patrimonio vero. Cioè, c'è un approccio che anche dal punto di vista comportamentale molto interessante, no? Che è quello di colazione da Tiffany, no? Ah. Cioè, una cosa è guardare in maniera rancorosa, rabbiosa, frustrata, un mondo che non ci appartiene. Sì. Altra cosa è dire, bene, allora io osservo questo mondo, ma intanto faccio il mio, quindi sono consapevole dei risultati che ho raggiunto, delle cose che posso mettere a disposizione. Perché hai citato colazione da Tiffany? Perché Holly guardava la vitrina di Tiffany pur sapendo di non potersi comprare pur quei gioielli, sapendo di non potersi comprare quei gioielli, mangiandosi una brioche, una laurea una laurea e due lingue. È un buon punto di partenza, però torniamo a dire, se no, nessuno non è così un buon punto di partenza. Un punto di partenza è avere dentro di sé l'idea di ciò che vorremmo essere all'interno di un'azienda, di un'organizzazione o nella professione. L'ultima domanda, spesso si sente dire ma questi ragazzi pretendono troppo, arrivano da noi chiedendo già posizioni super brillanti, e questa è una critica. Dall'altro si sente dire ce lo stai dicendo anche tu, non si può essere generici, non si può mandare un curriculum e dire sono disposto a fare qualunque cosa. Questi poveri ragazzi come si devono proporre? Si devono proporre con la disponibilità e l'umiltà di chi deve necessariamente apprendere, perché anche se tu hai una preparazione scolastica, una preparazione teorica e sei anche stato bravissimo nel tuo percorso di studi, poi la realtà aziendale ha delle peculiarità e quindi le tue competenze devono anche essere fortemente collegate alla tua capacità di vivere in quell'ambiente. Bene, io ringrazio come sempre la nostra coach Carla Ciani e vi ricordo che potete scrivere a Nessuno è Perfetta @radio24.it oppure twittare usando l'hashtag Nessuno è Perfetta o raggiungerci sulla nostra pagina Facebook. Buona domenica Carla Ciani, buona domenica a voi che ci avete seguito e come sempre ricordatevi che il multitasking è una fregatura.